I lavori di domani di Anna Marino. È molto importante per le aziende avere un'immagine, non solo una sostanza, è molto importante avere una reputation, è molto importante tutto ciò che gira intorno al marketing, che anche lì è cambiato come impostazione, non solo durante l'emergenza ma in questi ultimi anni, e quindi vogliamo capire in che cosa consiste il lavoro del behavioral marketer. Abbiamo qui un testimonial e vogliamo capire appunto in che cosa consiste il tuo lavoro. Il lavoro è un mix di due competenze sostanzialmente. Da un lato una forte competenza e profondità nella capacità di analizzare i comportamenti dell'utente, quindi non solo i classici comportamenti d'acquisto, diciamo legati a una vecchia metodologia di analisi delle opportunità sul cliente, ma anche ovviamente i dati comportamentali legati a tutto il rapporto col brand che ha l'utente in ambito digitale. Questa competenza viene parallelizzata e incrociata con delle competenze ovviamente tecniche, perché questo tipo di, diciamo, scienza di analisi del comportamento viene mescolata con l'utilizzo dei device, e quindi banalmente tutti noi utilizziamo un'app seguendo e cliccando all'interno del video determinati spazi. Ecco, queste due scienze che si uniscono creano le opportunità del futuro, quello che poi è tutta la parte, diciamo, predittiva dell'analisi del comportamento. Ecco, questi sono incroci, diciamo, virtuosi. Mi hai parlato di una parola magica che è, insomma, la parte digitale tecnologica, ed è molto importante capire da questo punto di vista. C'è uno scatto che è stato fatto nel campo tecnologico digitale anche della professione del marketing. Qual è stato questo scatto e come ci si può formare per diventare behavioral marketer? Beh, lo scatto c'è stato, perché io quel che molto spesso racconto in vari speech è che ormai dire digital marketing non ha quasi più senso, nel senso la parola digital è una commodity, non nel senso che tutto ormai è stato digitalizzato, e quindi da un lato la formazione di base è sicuramente quella di marketing, quindi la cara e vecchia formazione di marketing. Non esiste un buon progetto di behavioral marketing se non c'è dall'altra parte una competenza profonda su tecniche di marketing tradizionali. Quindi faccio un esempio molto classico: nel fast moving, quindi il prodotto food alimentare, con non sapere cos'è una curva di concentrazione, un decile di consumo, che è una base fondante dei piani di marketing nel mondo fast moving, non può, deve essere conosciuto, cioè non può essere assente quella formazione. Dall'altra parte sicuramente una grossa formazione tecnica, che non vuol dire di sviluppo, quindi non ingegneristica, ma sicuramente di usabilità tecnica, e quello forse è quello che a livello universitario manca un po' di più, nel senso che noi molto spesso lavoriamo con centri universitari, stakeholders, eccetera. Quello che, ecco, posso dire è manca un po' di concretezza da questo punto di vista. Tu dove ti sei formato, e ci sono formazioni online che magari possono essere un po' seguite adesso per chi aspira, e anche in questo momento di distanza, di emergenza, eccetera, si può approfittare di questo terzo tempo, insomma, come nel rugby, per formarsi, per crescere? Purtroppo, ahimè, sono del 72, quindi quando ci dovevamo formare non c'era tutto questo, in verità, quindi noi siamo un po' della prima ora, e quindi la mia formazione è stata fatta tutta sul campo, sulla grande trasformazione, però la base ovviamente è legata al marketing, soprattutto in alcuni ambienti. Se non conosci le regole del marketing in quel segmento, in quell'industria, fai fatica poi a costruire sopra queste conoscenze un buon strumento di behavioral marketing. Attualmente invece è cambiato ovviamente molto. Tante università abbiamo visto, sia per quanto riguarda i politecnici soprattutto, ma anche facoltà di economia, si stanno verticalizzando, stanno iniziando a fare dei percorsi verticali. Mi è capitato di fare qualche intervento con l'Università di Parma, con la LUIS di Roma, con il Politecnico di Milano. Cioè ci sono ormai delle eccellenze che avvicinano un po' queste nuove opportunità, cioè le uniscono. Non c'è oggi una scuola formativa che mescola queste tre informazioni, ma come sempre bisogna approfondirne una per poi cercare di allargare le proprie competenze attraverso dei master, questo di sicuro. E tu puoi vedere un futuro per lo sviluppo della tua figura, di questa figura che lega insieme tutte queste professionalità? Ricercato come lavoro, sicuramente ricercato, perché sia le aziende che, ecco, fino a poco tempo fa non avevano bisogno di questi profili, perché davano totalmente in outsourcing questo genere di attività, un po' come capitava nell'e-commerce 10 anni fa, cioè si dava molto in outsourcing. Oggi la tendenza è interiorizzare quella competenza, perché magari quello che prima era l'1% del fatturato oggi ne diventa il 10%, quindi è importante interiorizzare competenza. Stessa cosa sta avvenendo nel mondo del dato. Ecco, fino a ieri i data scientist erano solo dentro l'agenzia come la nostra e i progetti di behavioral marketing si costruivano dentro le agenzie. Abbiamo qualche cliente, abbiamo qualche realtà, tra l'altro con qualcuno abbiamo anche contribuito alla costruzione di queste aree, che si stanno dotando internamente di questa competenza. Quindi mentre fino a ieri il, diciamo, il candidato era perfetto per un'agenzia come la nostra, quindi si occupava di marketing digitale, ma ancora di più di behavioral marketing, magari verticale nel mondo promozionale o loyalty, oggi può, ovviamente partendo dalle multinazionali, trovare riscontro anche all'interno di quelle unit che tendenzialmente sono ancora sotto l'area del digital marketing. Quindi vuol dire il comportamento del cliente affinché sia leale, vuol dire fedele, insomma, e continui a tornare, ovviamente per un win-win da chi ha venduto il prodotto o ha venduto quel servizio. Non sono più né i costi né i premi, cioè tutto quello che era la vecchia premialità, quindi lo spremi e grumi, se avevo comprato 20 volte in quel punto vendita, non funzionano più. Lo dimostra tutti i giorni Amazon, che ci rende leali per altre leve che non sono sicuramente il prezzo, ma è un'attitudine che l'azienda dovrebbe avere rispetto a tutta la sua base di potenziali consumatori.